lo specchio. Veloce violetta, vado di fretta, vado di fretta. Passo di volto, buio le spalle, mi inseguo e non posso, mi inseguo e non posso, non posso staccarmi, non posso staccarmi. Vado di fretta, vado di fretta, vado di fretta. Forza di calmo, vado di fretta, vado di fretta, vado di fretta, vado di fretta.